versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24. Sono le 16:32 primi in diretta dal sud di Milano. Milano, come tutto il nord, assolata, ma insomma, sta tramontando. Ma io vi ringrazio per l'ascolto in diretta o in podcast. Vi ricordo l'indirizzo versione di Oscar @radio24.it. Io rispondo anche a Capodanno, non c'è problema. Oggi ho ricevuto parecchie lettere di alcuni di voi per prossime puntate. Ho visto che alcuni di voi hanno letto almeno la sintesi del decreto mille proroghe e alcuni dei punti del mille proroghe vi hanno lasciato giustamente perplessi. Sto parlando ai colleghi che hanno una partita IVA. Ma detto tutto questo, vi dico subito di cosa parliamo oggi. Oggi è una specie di supplemento anticipato ai conti della belva di domani mattina, che c'è comunque, però è in una versione sulle cose maggiori dell'anno che ci lasciamo alle spalle, mentre la parte che non possiamo fare domani ai conti della belva la anticipiamo in questa mezz'ora per approfondire gli ultimi sviluppi del caso MPS. E infatti la formazione è quasi al completo, perché con me c'è qui in studio il nostro grandissimo compare Mario Seminerio. Buonasera a tutti. E collegato da un posto che preferisco non dire perché sennò mi arrabbio, c'è Carlo Alberto Cannavale Maffè. Buonasera a tutti, non ho neanche messo la termovalvola, figuriamoci se dovete Aspettavi il mille proroghe, ho capito. Sì, esatto. Però invece noi partite IVA siamo delusi, perché la promessa del governo di cambiarci il regime delle comunicazioni obbligatorie dello spesometro non è stata onorata. E quindi mi domando, perché credete ancora alle promesse del governo? Sono alieno dal crederci. Del resto anche le banche popolari però sono rimaste un po' deluse. Un po' pese. Cosa faranno i correntisti di Bari e di Sondrio il 2 di gennaio? Ma allora, dunque, cari compari, io parto da una sintesi brevissima, perché faccio una sintesi brevissima e vi consegno alle vostre opinioni, che prego di dare ai nostri ascoltatori, come lo sapete già, ma insomma devo ripeterlo nella maniera più piana possibile, visto che stiamo parlando di cose tecniche un po' complicate, tre questioni. La premessa che faccio è molto semplice e devo dire da parte mia, e sono sicuro di parlare anche a nome vostro, con grandissima soddisfazione, ieri la Banca d'Italia ci ha dato una soddisfazione non proprio irrilevante, perché appartenendo noi a quella minoranza che alla comunicazione che era venuta dalla vigilanza della BCE dell'aumento da 5 a 8,8 miliardi dell'apporto di capitale previsto in caso di aumento di capitale precauzionale, quindi con l'intervento dello Stato, ma precauzionale come previsto la BRD, noi non l'avevamo presa come una discrezionalità anti-italiana, bensì una conseguenza dell'applicazione delle norme che vengono puntualmente richiamate dallo stesso decreto legge del governo. E ieri, dopo due giorni di trionfo invece opposto in nome dell'italianità violata più dei media italiani, la Banca d'Italia ci ha dato soddisfazione, perché ha spiegato per filo e per segno come appunto in applicazione delle regole europee si arrivi a quegli 8,8 miliardi. Premessa. Però adesso si aprono e restano aperti tutta una serie di problemi che, nella mia opinione, non solo la vostra, ma poi mi taccio, rimangono aperti per un bel po' di tempo, perché, cari ascoltatori, sappiate che il decreto, questo omnibus di intervento sulle banche che attiva i fondi, inizia l'esame in Parlamento a metà gennaio, non prima, e credo che il Parlamento si prenda tutto il tempo possibile per vedere quali emendamenti apportare. Doppia lettura, come sapete, Camera e Senato. Dopodiché, alla fine del negoziato su ogni singolo punto dell'intervento, ci vuole un decreto del MEF per l'intervento. Quindi calcoliamo che arriviamo a marzo, se non alla fine di marzo, quasi tre mesi. In questi tre mesi restano ancora, cari compari, e a voi chiedo la vostra opinione, problemi di un certo rilievo aperti. Primo problema: c'è chi ritiene, per esempio, che non essendoci l'azzeramento degli azionisti, il diverso regime proposto dal decreto del governo per la conversione dei subordinati Tier 1, Tier 2, rispetto al non azzeramento in realtà degli azionisti, comporti un problema aperto, che bisognerà ancora vedere su questo tema che cosa diranno gli organi europei. Prima questione. Secondo, c'è un problema aperto in realtà sul regime di conversione se violi delle subordinate, 75-100% se violi o meno il pari passo tra investitori istituzionali e investitori retail, visto che gli investitori retail vengono individuati per tipo di titolo e quindi si dà per scontato che ci sia stato una specie di mis-selling di massa. Non si dimostra il mis-selling in caso concreto, ma si dà per scontato che sia così. Secondo problema. Terzo problema. Qui tutti ragionano, quasi nessuno sembra fare attenzione al fatto che in realtà il prezzo delle azioni in emissione, quelle sottoscritte al termine del processo, viene determinato da una formula con un certo coefficiente che anch'essa potrebbe avere problemi rilevanti, perché potrebbe avere delle conseguenze di manipolazione abbastanza discutibili. Allora, io comincio da Mario Seminario. Tutto questo blocco di questioni per sapere come la pensi. Allora, sì, dobbiamo cercare di essere il più divulgativi possibile. Mi rendo conto che non è facile. Per quanto riguarda la cosiddetta violazione della par condicio tra azionisti esistenti e quelli nuovi che derivano dalla conversione, io non sono un giurista, però faccio una considerazione piuttosto di senso comune, cioè gli azionisti esistenti, per effetto della conversione dei subordinati, vengono ferocemente diluiti. Quindi in questo caso il burden sharing esiste. Esiste un peggioramento della loro condizione rispetto allo status quo ante. Quindi questa ce la potremmo anche far bastare. Ricordo che non siamo in regime di bail-in, che prevede l'azzeramento esplicito degli azionisti, ma in regime di burden sharing. Io quindi la penso come te, però c'è chi pensa al contrario. No, ma certo, ma poi il mondo è bello perché vario. Per quanto riguarda invece altri potenziali, diciamo, trattamenti, iniquità di trattamento, io farei veramente attenzione a questo. Allora, bisogna capire chi è retail e chi è istituzionale. Piccolo inciso, io sono fiducioso che un giorno tutti riusciranno a capire che dietro il termine istituzionali ci sono fondi pensione, fondi comuni dietro i quali ci sono risparmiatori e pensionati. Ora, si può applicare la perdita anche a loro, basta essere consapevoli. Io sarei anche un po' stanco di accoppiare il concetto di istituzionale a quello di locuste, perché manca poco. Quanto riguarda altri concetti con i quali ci divertiremo, abbiamo un mis-selling di massa su 40.000 persone? Può darsi di sì, può darsi di no. Priorità è quella di ridurre il contenzioso legale, come dice il ministro Padoan? Benissimo, però prendete questi due esempi. Noi abbiamo un retail, un cliente retail, magari di private banking, che si è comprato questa famosa obbligazione subordinata 2018 nei giorni scorsi a 50, esatto. Adesso va, gliela concambiano a 100 con una senior di pari scadenza. Questo che cos'è? Una piccola locusta in un angolo? Perché però è un privato, è un retail, va tutto bene, c'è la santità di tutto. Altra cosa, e poi passo la palla a Carlo Alberto. Prendiamo un istituzionale che si è comprato un subordinato, non lo so io, l'ex Anton Veneta, il Perpetual a 18-20, glielo convertono a 75 in equity. Allora, anche in questo caso, c'è un guadagno? E direi proprio di sì. Sì. Per cui attenzione a dove si mettono i paletti. Non credo che i paletti siano già stati fissati, esatto, in maniera inequivocabile. Io vedo della fluidità e un campo estremamente mobile in questo momento, ma forse mi sbaglio io che sono un malpensante. Può essere, ma io per questo ho detto guardate che il tempo è ancora lungo prima di vedere il precipitato finale di queste decisioni, perché resto convinto di una cosa. Ieri una delle risposte al forum del Sole 24 Ore, Carlo Alberto, che mi ha lasciato molto perplesso, per dire, per usare un termine britannico, e quando di fronte alla domanda di un collega del Sole che diceva ma insomma voi cosa fate? Convertite a 100 anche chi ha comprato a 50 o a 52? La risposta iniziale del ministro Padoan è stata non testuale, non stiamo qui a discutere se è giusto, virgola, ma solo se utile alla banca. La mia reazione è stata di un'incazzatura totale. No, caro ministro, tu stai agendo come un potere dello Stato, usi i soldi del contribuente e fai il piacere di porti il suo grandissimo problema di cosa sia giusto innanzitutto, non di cosa, poi di cosa è utile alla banca, perché non è che siccome diventa lo Stato parte preponderante dell'azionariato adesso la priorità vera era mettere al riparo la banca da arbitrati o da contenzioso. Comunque ricominciamo anche con Carlo Alberto su tutte queste questioni, come la pensi? Poi farò un commento generale, direi che la logica economica e giuridica del decreto è giusta, per me è però un caporetto della politica che ha sempre smentito di fare questo intervento, no? Quindi diciamocelo. Invece le formule per il calcolo poi specifico delle conversioni sono imprecise, discutibili e ancora aperte a molte controversie. Concordo con Mario che è difficile poi stabilire oggi se è vero che con quel decreto abbiamo messo al sicuro la banca e il governo da possibili ricorsi o possibili strascichi legali. Io proprio non lo penso, anzi il rischio di causa sulla clausola del cosiddetto no credito worst off, cioè sul pari trattamento rispetto a un caso di liquidazione, secondo me c'è, anche se è un caso comunque discutibile. Però il governo che proprio per evitare i rischi legali pretende di voler convertire tutti i subordinati tier 2 al 100%, compresi quelli comprati sul secondario, poi lascia aperta una voragine appunto sul tema del no credit worst off. Comunque, caro Oscar, devo dirti, qui si sta facendo i conti senza l'oste, e la verità che abbiamo capito, e Banca d'Italia ieri lo ha fatto, come dire, diventare lampante, che i conti non li fa né il Parlamento né il governo italiano e neanche la Banca d'Italia. I conti si fanno al single supervisory board, li fa la NUI col suo team e ce li manda. Quindi fare i conti senza l'oste, che ricordo a tutti, per adesso ha versato il Chianti di Siena, ma non è detto che versi il Prosecco di Montebelluna o dei Colli Euganei o dei Colli Vicentini, chiaro? Voglio ricordare a tutti questo fatto. Quindi ci vorranno ancora settimane per capire l'applicazione precisa delle formule. Ma però, scusa, la domanda, visto che hai citato, usando delle metafore, altre banche... ma quel decreto, decreto che ha emanato il governo e di cui comincia l'esame parlamentare a gennaio, si può applicare a banche che non sono sistemiche e che non configurano quindi il caso di aumenti di capitale precauzionale in caso di mancato superamento della necessità di capitale aggiuntivo di fronte agli scenari più estremi di stress test, che sono gli estremi richiamati esplicitamente del decreto legge e che si ritrovano solo nel caso di MPS? È applicabile? Ma diciamo a una prima lettura direi proprio di no. Il decreto è proprio esplicito dire no, casi sono limitatissimi a quanto previsto dall'articolo 32,3. Quindi, cari ascoltatori, per tradurre quello che il professor Alberto Maffè usa come parola, questo decreto, per come lo leggiamo noi, non si applica poi nei casi servisse a Vicenza, Verona, quattro banche risolte e chi ne ha più ne metta, le BCC che fossero corte di capitale, perché non sono sistemiche. Quindi da quel punto di vista noi ci sbaglieremo, ma chi continua a dire siamo solo all'inizio del reingresso nello Stato, forse il decreto non lo ha letto. Scusa, ecco, non l'interruzione. Oscar, fammi dire, non si applica per la parte di ricapitalizzazione. Di ricapitalizzazione, sì. Quello può tranquillamente applicare, certo, per la parte di garanzia di liquidità, che invece, certo, è, sì, una bella cosa, ma insomma è nota da 6 mesi e che ormai sarà la prima cosa che il governo dovrà fare, visto che è corta di liquidità MPS, probabilmente mettendo una bollinatura di Stato su carta già circolante di MPS, perché altrimenti il problema si pone. Ma comunque, scusa l'interruzione. No, voglio dire che quindi non pensiamo che questo sia l'inizio di una nuova IRI bancaria. Io l'ho scritto stamattina sul foglio, tu hai fatto bene a ricordarlo stamattina in trasmissione. Non è l'IRI bancaria, è semplicemente la caporetto di una politica bancaria nazionale che prende atto di non avere gli strumenti legali e finanziari per far fronte a una situazione che ha negato per anni e che finalmente si adegua alle linee guida europee, che non sono chiarissime, sono complesse, sono ancora abbastanza difficili da capire, ma non sono impossibili da capire con un po' di applicazione. E quindi questi soldi serviranno fondamentalmente per MPS e per la liquidità necessaria alle altre banche. Ma ad MPS, guardate che se fate i conti, finiscono 4,6 miliardi, sì, non sono gli 8,8, certo, miliardi, sì, complessivi, perché iniezione di capitale diretta sono 4,6, di cui 2,5 circa di subordinati, quindi sono addirittura debito, non sono neanche, no? Quindi paradossalmente è un intervento, ma più o meno in linea con quello fatto con i Monti Bond, no? Una cosa molto particolare. Poi ci sono i 2 miliardi e 2 previsti per il ristoro dei subordinati, che però sono sub iudice, perché non è assolutamente detto che la Commissione Europea, in questo caso è la Commissione Europea, non la Banca Centrale Europea, perché la competenza è quella per gli aiuti di Stato, esattamente. Quindi hai ragione tu, saranno 2 mesi di discussioni in cui finalmente forse il Paese si renderà conto che dovrà guardare negli occhi la belva della ristrutturazione bancaria. E forse faremo un passo in avanti, perché questi anni di negazione psicologica, rimozione psicologica del problema sono finalmente passati. Questo decreto almeno costituisce una presa d'atto, di, posso dire onesta, ecco, del fatto che non, le banche, non tutte, voglio dire, sono solide e hanno affrontate le loro crisi con i criteri europei. In nessun dramma, voglio dire, nessuno sconvolgimento. No, è chiaro che nel dirlo qua tutti e tre sappiamo però che il concerto dei media italiani è andato in tutt'altra direzione. Non ci sono grandi ammissioni di colpa se non per rarissime firme, mentre l'insurrezione generale è stata come sempre stata riservata alla presunta violazione del peso oggettivo di valutazione di MPS, delle banche italiane, rispetto ad altri esempi che i giornali italiani continuano a citare, sbagliando drammaticamente, ma questo poco importa, di interventi invece fatti con altri metri in altri grandi paesi europei. Un minuto di pausa per il traffico e poi torniamo. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati a parlare in diretta di MPS, di banche, dopo il decreto, dopo gli ultimi sviluppi sul caso MPS di questi ultimi giorni. Nel frattempo, ieri, altri sviluppi per le quattro banche risolte a novembre dell'anno scorso. Dovrebbe per tre di esse andare in porto quindi l'acquisizione da parte di UBI per una somma del tutto simbolica, un euro. E mentre per la quarta, quindi la procedura di sicuro non si chiude entro il 31, ma neanche al primo caso, quindi si sfonda al termine, però insomma Banca d'Italia ha fatto scrivere a tutti i giornali italiani che ormai ci siamo, quindi non ci dovrebbe l'Europa fare un rimbrotto. Ma il punto vero è che nessuno ha fatto un plissé sul fatto che all'atto della risoluzione la stima che era stata fatta, e quindi ciò che è stato dato anche in proporzione in capitale, era di 9 miliardi del totale dei crediti deteriorati nelle quattro banche, e adesso dopo un anno ne è saltato fuori altri 3,7, per cui ieri Atlante ha dichiarato di essere disponibile. Come mai, lo chiedo a entrambi, cominciamo da Mario, nessuno sembra stupirsi una cosa simile. No, e nessuno si stupisce, perché qui ci si gira sempre dall'altra parte. Ah, ecco. Poi fammi dire una cosa. Allora, vabbè, per le quattro banche risolte adesso aspettiamo che UBI intervenga, poi ci sarà un aumento di capitale, rileveranno per un euro, è una storia triste, diciamo. Però, come giustamente ricordava prima Carlo Alberto, la linea autorizzata dall'Unione Europea di garanzie su liquidità da quanto tempo c'è? 6 mesi? Sì. Dall'estate scorsa? Sì. Com'è che viene attivata solo ora? Forse perché quando è stata concessa originariamente, come dire, eravamo in una situazione perennemente pre-referendaria e quindi bisognava, sì, far passare il concetto ragione, che tutto andava bene, madama ma la Marchesa? Allora stiamo attenti però, cioè cerchiamo di non avere la solita memoria da pesci rossi, perché 150 miliardi di garanzie sulla liquidità autorizzati dalla Commissione Europea non sono arrivati oggi. Eh già. Sono stati attivati oggi per un plafond di 20 miliardi inclusa Monte Paschi. Quindi bisogna sforzarsi in questo paese di unire i puntini. Poi se andiamo avanti a dire che Deutsche Bank c'ha i derivati bicarbonati, certo, e i ciclamati e quant'altro, gli ungulati che non vanno bene, poi adesso scopriamo che ci sono anche le banche spagnole che frodano e quelle francesi, c'è un complotto dalla Grecia alla Finlandia, penso che riusciremo a capire assai poco di quello che sta succedendo. Esattamente, nel frattempo ricordiamoci che nel 2016 Montepaschi nel 2016 ha perso 10 miliardi di depositi, cioè mica una roba che conti poco su la residua liquidità di Siena. Oscar, posso dire una cosa veramente rapida? Siccome anche ascoltatori, ma è diventato il nuovo mantra, si pubblichi la lista dei maggiori debitori. Allora, facciamo una piccola precisazione. Non va pubblicato. Voi cosa intendete con maggiori debitori? Perché se parliamo di debitori in bonis, non sono affari vostri di chi sono i maggiori debitori. Dobbiamo andare a pubblicare la lista dei maggiori debitori in sofferenza. Ecco, poi io non so che cosa verrebbe fuori, perché siccome leggo, no, che c'è il solito sdegno di popolo, no, si pubblichi la lista dei debitori, allora forse prima bisogna capire che bisogna pubblicare la lista dei debitori in sofferenza, non di quelli in bonus, e poi si possono tentare di trarre delle inferenze. Se no replichiamo la canzoncina dei derivati sul debito pubblico, sì, italiano. Vogliamo vedere ogni contratto e non ci capiremo una mazza lo stesso. Carlo Alberto, che dici tu su queste nuove NPL che emergono dopo le scrupolose, certificatissime perizie e valutazioni invece che erano state fatte un anno fa? È che purtroppo la situazione è ancora grave e d'altra parte il report di ABI, che prevede una riduzione di circa 18 miliardi dal 2015 al 2018, cioè in tre anni le sofferenze si riducono di un non nulla praticamente, ci sta dicendo, sta ammettendo che il recupero di redditività delle banche è problematico e che la trasformazione dei crediti dubbi o i crediti, diciamo, cosiddetti unlikely to pay, cioè che sono non del tutto in bonus, la loro trasformazione in sofferenze purtroppo procede a ricostruire. Quindi vuol dire che le politiche di credito delle banche sono state, purtroppo continuano ad essere, ancora molto critiche. Io però non sono assolutamente d'accordo su pubblicare i nomi dei debitori, è una violazione di una semplice riservatezza commerciale. Non possiamo trattare MPS come una banca nazionalizzata, fammelo ripetere, MPS non potrà nemmeno citare la presenza dello Stato tra gli azionisti, è obbligatorio per norma europea che non svolga attività commerciali aggressivi, che non citi la presenza dello Stato, altrimenti ne verrebbe fuori un evidente aiuto. Come di Stato. Fa Poste, per esempio, perché Poste come è non mi far dire fa... questo... No, lo dico io. Poste regolarmente nella crisi bancaria dice: venite da noi perché con noi non rischiate nulla. Poste c'ha lo Stato, però fai bene a ricordare che secondo le norme vigenti, quando c'è un intervento dello Stato di questo tipo, la banca non potrà dire MPS: adesso siete tutti sicuri e coperti. Che chiamare questo decreto salva risparmio è millantato credito, salva risparmio, che roba, ma non è vero, no? Semplicemente disciplina di nuovo, secondo le norme europee, la tutela del risparmio secondo criteri condivisi e oggettivi, questo sì, no? Allora, se non è salva risparmio, è tutela del risparmio secondo le leggi europee, non è intervento dello Stato. Anche perché quella roba lì è tutta da approvare ancora, esatto, ed è soggetta alla scrutinio della Commissione europea. Quindi anche qua, nella scelta di denominazione, ecco, c'è una deriva renziana, se posso dire, non me l'aspettavo da Gentiloni questa cosa qua. Il ministro però è rimasto lo stesso, come è noto, ecco. Però detto tutto questo, stamattina Antonio Padellaro l'ha definito, dopo la conferenza stampa di fine anno di Gentiloni, abbiamo appreso l'esistenza per la prima volta nella storia della Repubblica di un premier scaldasedia. Io ho detto: non esagerare. No, dice: no, scaldasedia. Va bene, allora vediamo un po' alcuni ascoltatori come la pensano. Cominciamo con Alessandro da Genova. Alessandro, prego. Salve, buonasera. Intanto volevo fare un attimo una riflessione che tutto il sistema bancario, a prescindere dal Monte Paschi di Siena, è in profonda crisi, forse perché anche loro hanno eccesso nei prestiti nei confronti. Io le dico solo che il report dell'ABI emanato ieri, cui citava un dato Carlo Alberto, che non aveva mai fatto, dice che nel prossimo treno, fino a fine 2018, il calcolo dell'ABI è che il sistema bancario nel suo complesso avrà comunque una redditività che resta inferiore al costo del capitale, punto. Ecco, non c'è molto da aggiungere, è lo stesso ABI a dirlo. E dopo questa riflessione, Alessandro? Sì, diciamo proprio questo, che le banche hanno comunque imprestato soldi più delle proprie riserve che loro hanno in termini effettivi, tenendo conto poi che il cittadino medio si è impoverito non perché la banca aumentava i tassi di interesse, ma perché c'è stato uno Stato che in questo momento è andato ad aumentare la pressione fiscale, quindi se io devo pagare l'IMU devo prendere i soldi in banca, se devo fare determinate operazioni fiscali devo andare a attingere da quello che sono anche a volte i miei risparmi stessi. Quindi andando a togliere dal mercato denaro fresco. Quindi è proprio il sistema che secondo me in questo momento sta collassando. non solo perché c'è stata una cattiva gestione bancaria, ma perché ci abbiamo uno Stato che in questo momento, invece che immettere liquidità sul mercato, la va a togliere dal mercato facendo crollare poi tutto il castello su. Allora Alessandro, hai messo insieme un po' troppe cose, ecco, io mi limito a dire che mi sarei accontentato di regolatori un pochino più scrupolosi, e quei regolatori, cioè stiamo parlando di Banca Italia e della Consob in buona sostanza, ecco, mi sarei accontentato di quello, visto che per capirci l'acquisizione a quel prezzo di Antonveneta è stata poi coperta con modalità che hanno prospettato anche elusione della vigilanza e frodi contabili, cioè, ecco, per essere chiari, quindi, cioè, è una storia che va indietro negli anni, per così dire, è la mia opinione, ma questo mi assumo la responsabilità, è che ci sia stato un atteggiamento molto collusivo dei regolatori verso MPS per via della politica, ma poi in generale anche nel sistema bancario italiano, come abbiamo appreso dalle inchieste giudiziarie che sono in corso per esempio nelle quattro banche risolte e così via. Allora, compari, intanto io vi auguro buon anno. Un anno, caro Alberto? Un anno mordente, diciamo, un anno aggressivo. Vediamo, molto interessante. Però intanto noi torniamo col Conte della Belva domani per quello di fine anno, poi torniamo invece con gli argomenti. Il 7 gennaio noi ci siamo. Continuate su Radio 24.